Voci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti allo speciale viaggio tra le piccole e medie imprese in Italia. Oggi siamo in Piemonte, in particolare nel distretto dei vini, per capire come si sta sviluppando tutto ciò che ruota intorno a bottiglie pregiate di Barolo, Barbaresco, Nebbiolo, che va al di là del settore automotive e oltre ai tradizionali distretti crea nuovi bacini di produttività. E comune denominatore per i distretti piemontesi è il boom dell'export, più 14,2% nel primo trimestre 2017, più del doppio rispetto alle esportazioni distrettuali italiane, cresciute nel primo trimestre 2017 del 6,4%. E questo il bilancio elaborato dalla Direzione Studi e Ricerche d'Intesa San Paolo, che ha diffuso i dati sugli 11 distretti del Piemonte. Bene soprattutto i frigoriferi di Casale Monferrato, l'oreficeria di Valenza, ma tirano anche caffè, confetterie, cioccolato di Torino. Bene anche il distretto dei dolci di Alba e Cuneo, rubinetterie e valvolame di Cuseo Valsesia, tessile di Biella e vini delle Langhe, Roero e Monferrato. E si prevede un'ulteriore crescita per il secondo semestre grazie ad investimenti in tecnologia che faranno da booster, da propulsori. Come l'ultima innovazione introdotta nello stabilimento in provincia di Cuneo, alla GAI macchine imbottigliatrici Spa di Ceresole d'Alba, una smart factory in grado di garantire l'autonomia ed efficienza energetica con un alto tasso di automazione, macchinari in funzione 365 giorni l'anno, notte e giorno, e un trend di crescita tra l'8 e il 10% negli ultimi anni. Un investimento infine da 6 milioni di euro per realizzare un impianto energetico su misura per un'azienda 4.0 e per scongiurare micro interruzioni di energia elettrica nell'imbottigliamento di migliaia e migliaia di vini di ottime annate, come spiega l'ingegner Carlo Gai, presidente della Gai Macchina Imbottigliatrice S.p.A. di Ceresole d'Alba. Allora, l'azienda è nata nel 1946, quindi subito dopo la guerra, in quanto mio padre nel periodo di guerra aveva fatto una macchina per imbottigliare il vino del proprio ristorante, il ristorante che, essendo lui militare, in realtà era gestita dalla mamma. Dopo guerra, diciamo, c'era grande scarsità di mezzi, di soldi, per essere chiaro, e per fortuna un amico che aveva visto questa macchina gliene ha ordinata una per sé, era un commerciante da vino, ma poi si era anche un po' lambiccato per portargli altri ordini, e quindi l'attività è nata direi in modo quasi casuale. Certo, da un'innovazione, tutto è nato da un'innovazione e si prosegue sull'innovazione. Voi siete molto legati anche al territorio, ecco, e avete utilizzato molto le innovazioni di Industria 4.0. Come? Per territorio dobbiamo intendere il Piemonte, in quanto l'azienda è nata nel 46 a Pinerolo, si è trasferita nel 59 a Trofarello, nella cintura di Torino, e adesso dall'85 siamo a Ceresole d'Alba, quindi in provincia di Cuneo. Il territorio è sempre quello piemontese, la nostra è un'azienda familiare, come temo si senta dall'accento, siamo piemontesi di origine. Particolarmente nell'ultima sede, Ceresole d'Alba, siamo in provincia di Cuneo e abbiamo verificato alcuni vantaggi proprio legati a questa provincia. Fare rete è una cosa importante, fare rete proprio perché bisogna innovare, bisogna andare avanti. La vostra è un'azienda con una storia, ma che va preservata e va sviluppata. Come avete incontrato Industry 4.0? La GAI vive di progetti e di innovazione. L'ultimo progetto che sta facendo crescere l'azienda in questo momento è un brevetto che noi abbiamo fatto nel 2013, che riguarda una nuova valvola di riempimento, una valvola che può riempire sia prodotti spumeggianti che prodotti tranquilli senza compromessi. Rapporti col territorio, io direi con la gente del territorio soprattutto. Noi riteniamo che questo territorio ci fornisca dei grandi e ottimi lavoratori. Cioè, allora, noi abbiamo già dall'84 una filiale in Francia. Quando c'è qualche problema un po' più complesso, è molto probabile che sia un tecnico installatore della nostra regione che ne viene a capo. Ecco, come avete fatto a diventare la prima smart factory italiana nel Cuneese e ad autoprodurre il 93% dell'energia necessaria? Ma siamo partiti da un punto debole, cioè purtroppo la zona in cui noi siamo è colpita da frequenti micro interruzioni e rare macro interruzioni nella fornitura elettrica. Tutto ciò con l'obiettivo di un risparmio energetico. Poi, se mi consente, anche ecologico, perché questo impianto che si regge su basi economiche, cioè questo impianto con prudenza le posso dire che si ammortizza in 10 anni d'uso, ci produce anche un risparmio di CO2 di circa 1600 tonnellate all'anno, quindi diciamo abbiamo unito, mi lasci dire, l'utile al dilettevole. No? Certo, ovviamente anche la sensibilità rispetto all'ambiente in cui vivete, questa è una cosa importante, bisogna essere aziende tridimensionali che hanno la capacità di vivere nel territorio e di preservarlo. Essere inseriti nel territorio è una necessità ma è anche un interesse, cioè se il personale che viene alla GAI si sente realizzato, noi non pensiamo di avere dipendenti ma pensiamo di avere dei collaboratori, quindi questo coincide con gli interessi dell'azienda. Avete piani di welfare? Sì, noi facciamo un welfare, mi lasci dire, alla piemontese, cioè non lo chiamiamo così ma è quello che si chiama welfare, cioè diamo dei servizi ai nostri collaboratori, da una cucina fresca fatta da una cascina qui del posto, ogni lavoratore ha un posto macchina coperto. Noi abbiamo in progetto e dovrebbe realizzarsi quest'anno una scuola post diploma, una scuola per la formazione di tecnici che possano intervenire nel mondo. Anche qui lo facciamo non per fare del welfare ma per mettere le basi per una continuazione della nostra attività nel tempo. La semplice utilizzazione dell'energia giustifica l'investimento. Il modello di business, quanto finanziamento avete ricevuto? Quali sono i vostri numeri di fatturato, di dipendenti? Il nostro fatturato consolidato è intorno ai 50 milioni di euro, in crescita di un 8-10% di un anno sull'altro, questo a partire dal 2010, cioè dopo la crisi. Dal Piemonte al mondo, come fate a esportare e quanto esportate? Il tasso di esportazione è del 75% negli ultimi anni, è una costante, addirittura negli anni precedenti aveva superato l'80%. Devo dire che la nostra nicchia è la nicchia dell'imbottigliamento dei prodotti di qualità, vino soprattutto, ma oggi anche birre artigianali. Allora, questa nicchia è in effetti in mano ai produttori italiani, cioè i nostri concorrenti sono quasi sempre concorrenti italiani. Noi cerchiamo di primeggiare per la qualità del prodotto, per la qualità del servizio, e abbiamo una formula che nel tempo ci sta dando molta soddisfazione in quanto tutti i componenti delle nostre macchine sono prodotti all'interno della nostra azienda. Altro punto di forza per le aziende del territorio sono la sostenibilità e il welfare, il benessere dei dipendenti. Dal 1970 VIT si dedica alla creazione di prodotti 100% naturali per il benessere, la pulizia domestica e la cura della persona. E dalla cosmesi naturale, dai prodotti cosmetici al make-up vegano, dagli integratori alle creme, dalle essenze ai profumatori per ambienti, dai detergenti per la casa ai prodotti per il benessere degli animali domestici, ha creato un mondo sostenibile intorno ed dentro l'azienda, come racconta il presidente del gruppo Aristide Artusio. Facevo il dirigente e volevo a tutti i costi mettermi in proprio. Ho scoperto questa azienda che era nata nel 70, che era un'azienda dove il titolare era già anziano, voleva vendere una piccolissima azienda, allora fatturava ancora in lire, fatturava 1,5 miliardi, era nel 2001, poi è subito passato l'euro. Sono riuscito a rilevarla perché il titolare la voleva vendere e di lì è nato l'ampliamento, è nato l'arricchire di prodotti prodotti per il benessere, di prodotti cosmetici, perché lei inizialmente produceva solo detergenti ecologici per la casa e per la persona. Questo settore com'è nella vostra zona? È un settore che una volta, anni fa, c'era già su Torino aziende cosmetiche, poi si sono perse un po' e adesso stanno riprendendo. Il fatto della natura, io l'adoro, io sono valdese, sono di origine contadine, perciò dalla terra, dalla semina per poi avere il raccolto, perciò, e di lì abbiamo continuato sia il tipo di vendita, che è una vendita porta a porta, una vendita con le consulenti di ecologia domestica che vanno, noi abbiamo 1500 donne in Italia che vanno, consulenti che vanno proprio a vendere e a presentare questo genere di prodotti. E quindi avete una popolazione aziendale molto al femminile. Ecco, l'azienda si colloca nel verde della campagna, vicino alle colline dell'Astigiano, poi Rino in provincia di Torino, vicino alla città, ma vicino anche, come dire, a un cuore verde del territorio. Ma chi l'ha aiutata a fare questa operazione? Beh, a parte i miei collaboratori interni, proprio l'operazione di acquisto sono state le banche, è stata la banca. Il vostro modello di business? Formuliamo, produciamo e mettiamo sul mercato. Siamo forse l'unica azienda del settore che parte dalla formula. Cioè noi la formulatrice è il nostro direttore tecnico, che è la dottoressa Giussani Gloria, che ha lavorato parecchi anni con il professor Proserpio all'Università di Torino, oltretutto noi collaboriamo sempre anche con le università. I prodotti sono il 90% dei prodotti che noi hanno il nostro marchio, sono tutti prodotti da noi qua a Poirino nel nostro stabilimento. Lo scorso anno abbiamo superato 1.700.000 pezzi di prodotti. Il fatturato ormai siamo sui 15 milioni di euro. Ci sono anche dei piani di welfare aziendali? Sì, assolutamente sì. Beh, il micronido l'abbiamo chiamato Baby Natura perché è completamente naturale. Lei pensi che ha tutti i giocattoli in legno, ha tutti i muri che sono dipinti con dei colori particolari, naturali. È aromaterapizzato, perciò ogni locale ha un diffusore di aromaterapia che la domotica fa funzionare nei momenti in cui i bambini o dormono oppure non ci sono, c'è questa emissione di oli essenziali. Cucina bio a chilometro zero, a vista, che i bambini vedono la cuoca che gli fa da mangiare. C'è tutto un programma di pet therapy, di musicoterapia. E poi abbiamo una bellissima spa, un centro estetico e benessere, che sia per le persone esterne, ma soprattutto anche per le nostre donne che lavorano all'interno, dove poi c'è anche accanto una tisaneria, dove magari nell'intervallo possono farsi il massaggio, possono farsi i vari servizi estetici, poi magari mangiare un piatto naturale, macrobiotico, cucinato sul momento e poi tornare a lavorare. Questa e altre storie in anteprima, inedite in versione long, ma anche idee e novità per l'impresa potete trovarle sul sito di Radio 24, www.radio24.it, cliccando sulla pagina di programma Voci d'Impresa e curiosando nella sezione Extra, dove potete scriverci i vostri messaggi e le vostre storie. Voci di Piccola Impresa su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa e il blog e il download sono sempre su www.radio24.it. Un saluto da Anna Marino.